America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Vi do un paio di titoli. Intanto ci occuperemo di Fiat, di Mirafiori, di nuovi orizzonti nei rapporti con i sindacati, nelle relazioni industriali in Italia, grazie a un accordo raggiunto tra Confindustria e la Fiat proprio qui a New York nei giorni scorsi. Vorrei anche parlarvi di Mark Madoff, una storia molto triste, ricordiamolo, si è suicidato sabato, e il figlio di Bernie Madoff, il più grande truffatore della storia americana, fece un buco da oltre 50 miliardi di dollari sulla carta. Le perdite effettive calcolate sono state in 19,6 miliardi di dollari, 9,1 miliardi di dollari venivano dall'Austria, venivano da una signora, la signora Cohn, la quale aveva dei rapporti con Milano, e sono state due clausole incluse nella citazione a giudizio che hanno indotto questo povero Mark a suicidarsi, perché quelle due clausole lo mettevano direttamente in contatto con la signora Cohn in una operazione italiana condotta sotto l'ombrello della World's Fund, una piattaforma elettronica su cui era possibile negoziare. Era questo l'anello che mancava, e probabilmente il povero Mark, 46 anni, lascia una bambina di 2 anni, si era appena risposato da poco, ha 2 figli più grandi, dicevo, probabilmente non ha retto la forza d'urto di questa nuova rivelazione, che peraltro poteva anche essere smentita, ma evidentemente non ce la faceva più. Ha preso il guinzaglio del suo cane, lo ha appeso al tubo per l'antincendio a casa sua e si è impiccato sabato mattina. Vi anticipo infine un appuntamento: mercoledì il presidente Barack Obama si incontrerà con amministratori delegati delle grandi aziende americane, una ventina di loro, per cercare di ricucire. Sappiamo che l'atmosfera non era delle migliori, e dunque Obama, nel momento in cui deve ottenere importanti approvazioni in Parlamento, cerca di ricucire con la comunità degli affari. Ma veniamo alla Fiat, alla mia chiacchierata con Sergio Marchionne. Sentiamo che cosa ha da dire l'amministratore delegato della Fiat su questo accordo raggiunto con Confindustria e sulle prospettive della NewCo. Da un punto di vista pratico, l'accordo che avete fatto oggi prevede anche la creazione di una confederazione auto. L'unica cosa che so è che abbiamo perlomeno stabilito dei punti di riferimento per poter firmare un contratto auto che dà la flessibilità necessaria alla Fiat e protegge tutti i diritti necessari dei nostri lavoratori, ma gli dà il contesto esiste. Ma deve essere un contesto che ha a che fare con l'auto, non i contesti generalizzanti non funzionano. Il mondo è cambiato da quando stava firmato quell'affare lì, quindi io non voglio togliere i diritti dagli altri, ma ho anche bisogno della flessibilità necessaria per andare avanti. Pensa che la NewCo possa diventare un punto di riferimento per altre forme contrattuali in Italia? Credo nel campo dell'auto o della componentistica può darsi che lo sia, e quindi io credo ci sia anche una certa disponibilità da parte di Emma di guardare queste possibilità e vedere un po' cosa fare. Certo, è un impegno per la Confindustria per gestire questo nuovo mondo, sta cambiando. Quindi pensa che questo il nostro compito, essendo la più grande industria italiana privata, è quello di assistere anche la Confindustria in fare questo passaggio. Lo faremo volentieri. È un modo di dare una spallata a quelle rigidità strutturali italiane di cui tutti parlano. Come si dice in inglese, just start. Bisogna cominciare pure da qualche parte, no? Poi il grande lavoro da fare è fare in fabbrica con i nostri. A dare loro la libertà di agire e di creare un futuro insieme alla Fiat, questo il vero scopo è questo, dare loro i mezzi per diventare competitivi, è l'unico modo per garantirgli un futuro, se no stiamo perdendo tempo. La proposta che abbiamo fatto a Mirafiori è molto molto più generosa di quella che è stata fatta a Detroit, no? Nel senso che non abbiamo ridotto salari, non abbiamo fatto assolutamente niente, vogliamo semplicemente cambiare il sistema, proprio le regole operative di una fabbrica dell'auto per essere competitiva, perché il problema non è con i 10 minuti di pausa, i 5, sono necessarie perché fanno parte di un ciclo dove diamo il massimo utilizzo all'investimento che viene fatto. Qui parliamo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro. Quindi siccome questi investimenti sono rischiosi di natura e devono produrre il massimo possibile per giustificare il farlo. Quindi se lei mi comincia a ridurre la capacità del sistema a produrre vetture perché non gira la macchina, mi mette ostacoli dappertutto, l'investimento non lo posso fare lì, no? E che scadenze si dà? Il più presto possibile, guardi, non cercare, ogni volta che diamo una data a questi affari qua viene sfruttata dagli altri. Quindi. Però a un certo punto dovrà decidere, a degli azionisti a cui deve rispondere, se non funziona, sì, porterà questi soldi da altre parti? Ovviamente c'è un piano B, no? bisogna fare la macchina, mi serve, quindi bisogna fare un'altra parte la vettura, non è che abbiamo scelto. Poi abbiamo un'altra parte, abbiamo il brand americano qui da vendere, che scherziamo. Però da un punto di vista strategico lei ha bisogno di produrre in Europa, la Jeep deve essere fatta in Europa, c'è no, tutto un contesto. È stata la scelta della Fiat e della Chrysler di portarla in Europa. Guardi, io le posso dire, posso andare in qualsiasi paese che vuole in Europa e scegliere altre giurisdizioni, altri governi che andrebbero a incoraggiare quell'investimento là, lo finanzierebbero anche. Quindi lo farebbe in Europa, non in America? No, ma lo potrei fare in Europa come lo potrei fare in America. La scelta, abbiamo la possibilità di farlo qui, di farlo in America Latina, di farlo in Cina, di farlo in India, dove vuole lei, no? C'è un problema con la FIOM che tiene sempre questa linea dura, un problema di ingresso in RSU? Io quello che leggo, chi fa dichiarazione all'impazzata qua la FIOM? Ovviamente hanno un punto di vista che stanno cercando di portare avanti, è un punto di vista che io non condivido minimamente. Zero. È vecchio, rischia di mettere l'Italia come sistema nazionale fuori dal mercato globale, questo atteggiamento così rigido da parte dei sindacati? L'esigenza che abbiamo visto adesso andrà a bloccare lo sviluppo del paese, questo glielo posso dire chiaramente e lo dico con tutta onestà. Perché il grande problema che abbiamo noi, io non sono 7 anni che faccio questo mestiere, non sono mai riuscito a portare un altro costruttore europeo a produrre in Italia, mai. Qua c'è stato un accordo preso tra il governo, i sindacati e l'azienda per cercare di tracciare un percorso nuovo per la Chrysler. L'impegno è stato preso da tutti, nessuno si è ritirato indietro, tutti hanno fatto sacrifici e stiamo andando avanti. Qua in Italia questo discorso qua non è molto vendibile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, The Times Are Changing, grande canzone di Bob Dylan. Beh, il testo originale è stato venduto all'asta per $422,500 e sul retro di questo foglietto c'erano anche i versi di North Country Blues. Se l'è comprata un hedge fund manager, Adam Sandler, e dunque in onore dei tempi che cambiano o che comunque dovrebbero cambiare, come abbiamo sentito da Marchion, Bob Dylan con The Times Are Changing. I'm writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.